Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. I compromessi sono sempre negativi nei confronti dell'Inter. Questo è il problema. Se gira un qualcosa, poi alla fine chi la prende male, diciamo, va, è l'Inter. Se deve volare uno schiaffo, lo prende l'Inter. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sei in Champions con 4 giornate d'anticipo dalla quinta. Ripeto, questi ragazzi io posso dire zero? No, ma è situazione dubbia, io l'ho vista chiaramente la situazione, cioè, a parte il giocatore della Roma non prende proprio assolutamente la palla e prende comunque il calcagno di Lautaro. Con gli arbitri assolutamente, massimo rispetto, anche loro stanno vivendo una situazione talmente strana. Certo, non prendi gol, vai 1-0, entri con un altro spirito. Ma guardate, c'è già un'anomalia che è strana, molto strana, no? Non voglio entrare a fare polemica o trovare delle scuse. Io dico solo che questi ragazzi oggi io posso dire solamente bravi. Anche perché sai che poi gli orari li sceglie tutti, cioè la sceglie la Lega, quindi. Forse non eravamo presenti noi quando hanno stilato i calendari, perché a noi è un calendario folle e invece. Ci sono altre situazioni dove sono 5 giorni di riposo e per poi ripartire. È la terza partita che giochiamo consecutivamente con una squadra che ha un giorno e mezzo di recupero in più rispetto a noi. E tu dici, ragazzi, che in questo periodo un giorno conta. Ma in questo periodo noi giochiamo a 29 gradi, 30 gradi, ci alleniamo a 29-30 gradi. Viaggiamo, arriviamo alle 4 la notte e non conta. Devi giocare il dopodomani. E beh, molto bello sentire Conte sereno dopo il 2-2 di Roma. Pierluigi Pardo, Radio Twittami. Ma non l'ho preparato, mi sono dimenticato. No, hai fatto i compiti, Lazzarone. Non ho fatto i compiti, insomma, dai, non è inutile, posso fare un tweet così? No. Entriamo del vivo, andiamo a bomba, tanto sappiamo. La ciccia c'è, no? Riccardo Roma Trevisani, c'è ecco. Anche lui, eccolo là, andiamo a bomba. Ciao, buongiorno, Ricky. buongiorno ragazzi. Come va? Bene, capoccione mio, tu? Bene, vecchio Trevisani, molto vecchio. Bene, ragazzi, dopo i convenevoli diritto, andiamo su Conte che fa... Hai sentito pure capoccione mio, che è una cosa, insomma, proprio nell'ambito. Senti, allora, Conte ieri sera, dopo la partita con la Roma, ha messo la maglietta dell'Inter e ha fatto questa tirata qui... Aiutatemi a leggere tutte queste cose che ha detto. Per proprietà transitiva, la prima cosa che mi viene in mente è che se la prenda con Marotta, con Antonello, con gli interi, cioè, insomma, i rappresentanti dell'Inter nella Lega, se c'erano dormivano, mi fanno giocare tutti i giorni. Cosa dite, Pier? Che Conte è uno che, soprattutto quando c'è l'adrenalina post partita, dice quello che ha in testa senza fare grandi calcoli, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze anche interne di quello che dice, perché quello che tu fai capire è vero, cioè è chiaro che se l'Inter è andato a fare i calendari li è fatti male, ammesso e non concesso ovviamente che tutto questo sia vero, poi se vuoi facciamo un po' di tabelle, vediamo un po' di cose, è chiaro che vuol dire che se l'è giocata male a livello dirigenziale, ma io non credo che Conte abbia problemi con i suoi dirigenti, cioè non penso ci fosse la volontà di mettere in difficoltà Marotta o qualcun altro, assolutamente, ne sono certo al 100%, così come dopo lo sfogo famoso di Dortmund, famosa partita dominata nel primo tempo e persa nella ripresa, non è che lui in quel momento volesse andare contro Marotta o contro chi aveva fatto il mercato o contro Ausilio, è che in quei momenti c'è l'adrenalina, lui deve difendere se stesso, deve difendere la squadra, gli rode legittimamente, perché insomma ieri era una possibilità importante, poi c'è stato anche un episodio arbitrale, insomma, cioè, quindi ci sono aspetti oggettivi di rodimento, di rosicamento, come diciamo noi a Roma. E quindi quello spiega secondo me le dichiarazioni. Io non penso che ci sia una strategia precisa, profonda, studiata a tavolino. Cioè colposo al massimo preterintenzionale, Riccardo. Assolutamente sono d'accordo con Pierre. Non vedo un disegno contro qualcuno, vedo un uomo arrabbiato. Però una cosa che ha detto Pierluigi la riprendo e la contesto, cioè il fatto che debba difendere la squadra e se stesso. Secondo me si può anche dire forse in questa stagione qualcosina si è sbagliato, se 19 volte in vantaggio l'Inter viene recuperata, se viene sempre messa sotto nei secondi tempi, se ogni volta che ha avuto l'occasione per rimontare e mettere pressione alla Juve ha pareggiato col Sassuolo ed era cominciato da 3 giorni il campionato, non c'era stanchezza o avversari che riposavano di più, ogni volta qualcosa questo col Verona, col Sassuolo, col Bologna e con la Roma. Ieri è una partita che la Roma deve vincere 2-0 per quello che ha detto il campo, è stato fatto un gol sul calcio d'angolo e un gol su follia di Spinazzola. Io non avrei parlato del calendario, avrei detto ma come mai ogni volta che ce la possiamo giocare, perché tu vai a meno 3, c'è Juve-Lazio e gli metti tanta pressione alla Juve in grande difficoltà che ha preso 9 gol in 3 partite, io avrei parlato di questo e non del calendario. Sì, ho visto i conti, ho fatto i conti, tutte le volte l'Inter ha giocato ogni 3-4 giorni e gli avversari quasi sempre hanno avuto un giorno in più, se fai una somma totale diciamo che gli avversari dell'Inter hanno riposato 5-6 giorni in più rispetto all'Inter stessa. Non è poco. Gli avversari dell'Inter però non hanno la rosa dell'Inter, e questo pure va detto, e non hanno l'allenatore da 12 milioni all'anno, perché sennò siamo tutti uguali e i giorni di riposo di Liverani devono essere uguali a quelli di Conte e allo stipendio di Liverani è uguale a quello di Conte, perché non è così, non è così, no, però e ci sono delle differenze. Però insomma il giorno in più può pesare, sono d'accordo che culturalmente non mi piace chi piange o comunque chi si lamenta ex post di situazioni che non sono strettamente legate al suo lavoro. Sono convinto che degli errori Conte l'abbia fatto in questa stagione, dal punto di vista generale secondo me la contestazione tattica più importante riguarda la mancata esplosione di Eriksen, che ovviamente è dovuta anche a lui, soprattutto a lui, ma sulla quale forse si poteva fare qualcosa di più, e penso anche però che non sia una stagione da buttare, perché poi tutto questo è un anno secondo me di crescita, ed è un anno oggettivamente di crescita. Poi certo, la Juve vince il campionato, ragazzi, per tornare al verbo rosica, cioè si morde le mani l'Inter, si morde le mani la Lazio, si morde le mani l'Atalanta, cioè non è che c'è molto da girarci attorno. Se questa Juve così, quella che abbiamo visto nelle ultime 3 partite, porterà a casa il campionato, ipotesi comunque piuttosto probabile, è chiaro che quelle che stanno dietro, insomma, le occasioni, perché l'Inter non sono tanti i 2 punti di ieri che non ha preso, ma è Inter-Bologna, Inter-Sassuolo, ti ripeto, siamo sempre lì, però la chiave del discorso secondo me è quella che insomma, ha lasciato intendere Riccardo, cioè l'Inter ieri sera stanca, con poco riposo, quello che vuoi, però arriva lì a giocarsi l'ultima chance, come l'ha fatto con la partita della vita, non fa un tiro in porta, Ricky, l'hai raccontata la partita, non avevano neanche la faccia di quelli che vanno all'ultima spiaggia, perché quella faccia lì ce l'avevano la partita prima, Genoa-Lecce, li vedi che sono consumati dalla tensione. L'Inter ha giocato una buona partita normale, e non ti aspetti dall'Inter di Conte ieri sera una buona partita normale. Io ti aspetti una roba diversa. Ragazzi, ho visto Roma-Parma e Brescia-Roma, e onestamente mi aspettavo un avvio dell'Inter anche magari poi tipo da poter subire una rimonta come accaduto a Dortmund a Barcellona, ma ieri è la partita per fare quel tipo di partita, cioè per fare una partita in cui entri in campo e ti mangi il campo. Esatto. Ed è una cosa molto alla Conte, che ha fatto la Juve, che ha fatto il Chelsea e che non ha fatto l'Inter ieri sera. E questo secondo me che lascia perplesso. Bravissimo. Molto più del calendario. Sono d'accordo e con tra te. Tra l'altro c'è l'aggravante che eri pure passato in vantaggio. Non è che eri passato in vantaggio per lo Spirito Santo, eri passato in vantaggio perché hai fatto gol e te lo sei meritato. Quindi però voglio dire, era un'occasione a quel punto doppia per mettere in difficoltà la Roma, che ci tiene a fare un buon finale di stagione, ma che tutto sommato anche in termini di motivazioni non aveva le stesse motivazioni dell'Inter ieri sera. No, ma io sul il giudizio sono sono d'accordo e non mi piace l'alibi. E penso che ad oggi il bilancio della stagione dell'Inter sia un bilancio in campionato discreto, non esaltante e non deludente. Un passo avanti rispetto all'anno fa è stato fatto ed era ovvio che venisse fatto perché c'è un nuovo allenatore e perché sono stati spesi tanti soldi. È chiaro che dopo ieri sera, a questo punto al 99%, l'orizzonte dell'Inter si sposta sull'Europa League. Sì, se fa... voglio aggiungere una cosa soltanto, perché qui non credo che possiamo metterci a discutere Conte come allenatore in nessuna maniera, perché è un allenatore che l'ha già dimostrato in maniera straordinaria, nazionale, la Juve, il Chelsea, il suo valore. Ma come tutti i giocatori, cioè la stagione di quest'anno di Immobile non è come la stagione di Immobile dell'anno scorso, e vale anche per gli allenatori questo discorso. Non tutte le stagioni riescono bene, non tutte le conferenze stampa riescono bene, perché poi nel ristorante da 100 euro con 10 euro Allegri l'anno dopo ha fatto la finale di Champions League. Per cui non sempre le dichiarazioni vengono fatte bene e non sempre le annate vengono fatte bene. L'Inter va in Champions con qua grande vantaggio e non all'ultima giornata per il rotto della cuffia, con tanti soldi spesi, col mercato fatto, eccetera, eccetera. Ma secondo me, se facciamo un'escalation dei 10 anni di Conte allenatore, questa stagione non è la sua migliore. Non è la sua migliore, assolutamente. È una delle, non so se è l'ultimo o l'ultimo posto, ma insomma, diciamo, è nella parte media, medio-bassa della sua storia. Ma questo è la dimostrazione di quanto ci aspettiamo da Conte, che è un grande allenatore. Io credo che anche in termini di flessibilità tattica, riportando adesso il discorso in una sfera più, appunto, più tecnica, qualcosa in più dall'Inter io me l'aspetto, perché torniamo al discorso di Eriksen, che sicuramente ha le sue responsabilità, perché sicuramente non è entrato con la faccia cattiva che Conte vuole da tutti i suoi giocatori, quindi è il primo responsabile di un rendimento così, però è anche vero che nel momento nel quale a gennaio ti arriva una soluzione come questa, hai del tempo oltretutto forzato per il lockdown per poterci ragionare sopra. Qualcosa in più, secondo me, un grandissimo allenatore, come credo che sia Antonio Conte, indiscutibilmente mi aspetto che lo faccia. Sì, il fatto perché è un valore aggiunto enorme. Poi che lui volesse Vidal non c'è dubbio, lo sappiamo tutti, però Vidal in quel momento non poteva arrivare. Però i grandi allenatori, e Conte è sicuramente un grande allenatore, hanno anche questa capacità di adattare i propri moduli, le proprie idee al potenziale umano che hanno, ed Eriksen è un giocatore che ha dimostrato in più di 500 partite in carriera di poter essere, io sono sicuro che sarà un giocatore importante per l'Inter del futuro. Sì, più che altro il punto è che nessuno dell'Inter ieri aveva la faccia da Conte, questo mi sembra, certo. non solo Eriksen, no. Insomma, non era la faccia di una... fine. No, ma certo, però non era la faccia di una squadra che va lì a giocarsi l'ultima chance della vita, per quanto eventuale potenziale. al dato che ricordava Riccardo prima, cioè che l'Inter è adesso credo a 22 punti, non lo so, io ho visto il dato prima della SPAL. Tu avrai visto quello prima della Roma, bisogna aggiungere altri 2 punti di punti rimontati . E non è una caratteristica da Conte, ecco, perché bravo, c'è una bravo, cosa bravo, no, cioè, ma infatti Conte è arrabbiato pure, sicuramente è arrabbiato dentro di sé pure con se stesso, poi probabilmente lo sfogo di ieri era uno sfogo che gli veniva dal cuore, era un modo anche secondo me per difendere, ripeto, se stesso e la squadra, per compattare. Lui ultimamente spessissimo ha chiosato facendo i complimenti ai suoi ragazzi dicendo non posso rimproverare nulla, eccetera, eccetera. Quasi ogni volta. Probabilmente c'è stato un eccesso di aspettativa, è arrivato il primo anno, non è che dovesse vincere per forza il campionato, però insomma questo è. Dall'anno prossimo arrivano gli esami. Me lo fate aggiungere questo? Gasperini ha creato l'Atalanta, Inzaghi ha sfiorato lo scudetto con la Lazio. Klopp lo ha vinto a Liverpool dopo 4-5 anni. Conte non può arrivare e vincere, certo, a botta secca dopo 8 anni di Juventus, ci vuole tempo. Mi piacerebbe vedere l'Inter di Conte tra 3 anni che squadra è diventata, perché certo, altrimenti se ogni anno si butta tutto a mare, non vale per l'Inter, vale per le altre squadre, non si ottiene mai niente. Ci vuole tempo tempo per costruire. Io continuo a pensare, con una previsione che chiaramente mi espone alla possibilità di essere preso in giro ogni minuto, che proprio è un discorso da fantacalcio con la palla di vetro, se devo immaginare la prossima grande cosa del calcio italiano, vedo l'Inter in questo momento più avanti rispetto alle altre, rispetto al Milan, che pure ultimamente negli ultimi mesi sta facendo bene, ma mi sembra dal punto di vista societario, dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista, certo, del mercato, cioè se dovessi dire oggi, dovessi puntare un euro sulla prossima squadra capace di aprire, non dico un ciclo, ma insomma qualcosa di di importante sicuramente dico l'Inter, e lo dico anche perché c'è un allenatore che mi piace. Da mille punti di vista. L'elemento pazienza è fondamentale. Io credo che ci fosse un eccesso di aspettativa dovuto anche alla suggestione, perché Conte all'Inter, ragazzi, era una roba da ogni punto di vista clamorosa. Allenatore vincente, allenatore ex nemico, nel senso comunque di allenatore della Juve storico che va allenare l'Inter, cioè c'erano tutti gli elementi anche di storytelling per poter costruire una grande storia. Adesso questa squadra è lì, si ferma lì, molto probabilmente si fermerà lì, cioè si fermerà sulla riva del fiume col battello che è partito 5 minuti prima e si è arrivato in ritardo. Però chi è questo? Trevisani? No, non lo so, se è Trevisani. È caduto, sì. Trevisani, ragazzi. Ma adesso recuperiamo. Telefonino di Pier 1, telefonino di Trevisani 0. Mettiamolo agli atti. Tra l'altro, nella campagna umbra, sto in un posto pazzesco, però con una copertura. Come si sente oggi? Bello, fantastico, stai lì. Io ti invito a restare lì. Io sto qui, sto a Assisi. Sto qui. Paolo, c'è Paolo da Milano, un ascoltatore, un altro è Rolando da Venezia. È tornato Trevisani, che informa immediatamente del vantaggio. 1-0, Riccardo, 1-0. No, ero fortunatamente caduto, quindi non ho sentito tutte le boiate del capoccione. Ha detto 1-0, Fessacchiotto, 1-0. Ha detto telefonino di Pardo 1, telefonino di Trevisani 0. Hai capito? Questa è un'onta. Fredda cronaca. È un'onta grave. Paolo, buongiorno. Dimmi. Pronto? Pronto Paolo? Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Avete già parlato molto di queste esternazioni di Conte. Quello che volevo aggiungere io, che mi ha fatto dispiacere perché lo reputo un allenatore di una caratura molto, molto elevata, il fatto che lui abbia parlato delle altre squadre, che è sempre un po' spiacevole, anche perché per esempio alcune squadre che lui ha considerato con un calendario migliore sono quelle che poi magari hanno messo l'Inter nella condizione di giocarsi queste ultime partite rubando parecchi punti alla Juve, tipo il Milan, tipo l'Atalanta, eccetera. E il fatto che poi alla fine del discorso, sempre del calendario, poi lui abbia sottolineato con una certa, non arroganza, ma perché è un dato di fatto, il discorso che comunque queste squadre sono molto lontane in classifica dall'Inter. Quindi l'ho trovato un po' curiosa come analisi da parte di un allenatore del genere. Tutto qua. Anche tu, Riccardo? No, nel senso che credo che preferisco la versione che ricorda comunque che l'Inter è davanti, che l'Inter è in Champions, che l'Inter ha fatto bene, piuttosto che la versione del calendario. Cioè non mi dispiace il fatto di ribadire, è vero che voi mi criticate e vi aspettavate di dire, ma io comunque ho fatto questo, questo e questo. Se per farlo serve ricordare che squadre che partivano con l'ambizione di scudetto come il Napoli o di arrivare in Champions come la Roma, eccetera eccetera, beh, cioè, mi ricorda l'affermazione di Mourinho dei zero titoli. Non si è parlato di una squadra che chiuderà la stagione con zero titoli. Sono squadre quest'anno che chiuderanno con zero titoli, zero titoli. Uguale, no? Parlate di me, criticate me, ma quelli stanno indietro, ma perché mi rompete le palle? Senza quello. Sì, al momento le squadre con un titolo sono la Lazio e il Napoli, giusto? Questo sì, manca, al momento manca il campionato, manca il campionato e manca la Champions. E la Champions League, e l'Europa League anche, caro Pier, che ti dimentichi. Sì, assolutamente, quindi possono succedere le cose. E l'Europa League secondo me è un territorio a questo punto di caccia clamoroso. Ragazzi, per io vi do in diretta la notizia su chi vincerà il Pallone d'Oro nel 2020. Sì. Nessuno, perché il Pallone d'Oro non verrà assegnato, l'ha comunicato adesso. Non assegnato l'equipe. Per Covid? Sì, a quanto pare sì, stagione non ordinaria, non normale, niente Pallone d'Oro per nessuno. Peccato, Righi, era l'anno tuo questo, peccato. Sì, secondo me ero lì con Mbappé e Lewandowski. No, a parte le battute, vabbè, insomma, sì, dai, è un anno eccezionale in tutti i sensi, eccezionale in senso purtroppo negativo per mille problemi che abbiamo avuto, li sappiamo, e... mi verrebbe da dire, insomma, il Pallone d'Oro è l'ultimo degli aspetti, l'ultimo dei problemi. Però... Io sono d'accordo. Nemmeno io, ma perché non darlo? Cioè, che senso ha? Non è che dobbiamo... non si giocano le partite, non è che non si giocano. Se riprendo a giocare, ok. Infatti, vabbè, non è giocato, sì, perché non mi hai dato? Sì, perché motivano tutto stagione non ordinaria, è quello che leggo su sottopancia di Sky, quindi... Riccardo Trevisani, informarsi a casa tua. Ad oggi a chi lo dareste? C'è la Champions di mezzo, come fai a dirlo? C'è la Champions di mezzo, però insomma. Ad oggi a chi lo dai? Non lo so, Benzema, a chi lo dai? No, non lo so. Benzema secondo me è nettamente in corsa, ragazzi, ve lo dico. Oggi forse il primo che mi viene in mente è Benzema, ma tanto non l'hanno. Andiamolo noi, scusa. Mi viene in mente Giulio Andreotti invece. Perché? Perché? Perché Giulio Andreotti sosteneva che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Niente, era il primo anno che non vincevano né Messi né Ronaldo, no? Aspetta, un attimo, non è che il pallone d'oro l'hanno fatto Ronaldo, cioè voglio dire, dal punto di vista di chi lo organizza, tutto sommato, se non lo vince né Messi né Ronaldo in un anno così particolare, anzi potrebbe essere un'occasione quasi direi di marketing per fare notizie anche quest'anno, quindi no, non penso che ci sia malizia da questo punto però, di vista. Però c'è ancora una Champions da assegnare, quindi c'era ancora tempo per diversi conti, anche Lewandowski che ne ha fatti 30 mica male. Perché magari lo vince Ilicic. Magari lo vince. Prima che dicessi Benzema ho pensato a Gosens. Rolando da Venezia, ultimo ascoltatore, poi salutiamo Riccardo Trevisani. Dopo che mi avranno lor signori dato una loro opinione sull'altro episodio, cioè quello del fallo Collar of Lautaro, so che a voi telecronisti sono cose che fanno impazzire di gioia. È il nostro sogno raccontare partite, dire di arbitrario, io ve lo chiedo. Però prima Rolando, buongiorno. Buongiorno, sì, mi ha un po' anticipato perché praticamente avete parlato soltanto della questione Conte, della sua esternazione. Io sinceramente ho visto un Conte molto murignano in questo senso, sì. E il fatto che molti interisti, secondo me, dall'inizio lo abbiano, non dico schifato, ma quasi trattato come una specie di qualcuno che era arrivato così, un infiltrato, eccetera. Quindi assolutamente giustissima, secondo me, questo tipo di cosa. Io dico invece che ieri si è verificato l'ennesimo episodio allucinante, vergognoso, di un campionato che dal punto di vista arbitrale, a pensar male, come diceva il discorso di Andreotti, si fa peccato ma ci azzecca sempre, perché io credo che un rigore come quello che non ha dato l'arbitro dalla partita di sera sia una cosa incredibile, anche nel momento stesso in cui il VAR ti chiama e ti fa vedere, dice forse non l'hai visto bene, ma guarda bene. Mi ha ricordato un abisso nel Fiorentina Inter, mi sembra una chiamata, cioè questi arbitri sono delle prime donne, secondo me spesso tra l'altro molto molto scarse. C'è questa fiaba che gli arbitri italiani sono i migliori del mondo, sono fra i peggiori. Ma secondo me, Rolando, non lo so, secondo adesso questo guardi, io l'altro giorno ho fatto la telecronaca di una partita Spal-Inter dove Di Biagio si è arrabbiato pure con noi di DAZN perché secondo lui era rigore netto. Ci sono fior di moviodisti, fra cui il nostro Marelli, che diceva che era rigore, cioè io faccio fatica, glielo dico sinceramente, faccio veramente fatica a vedere un disegno, ma non è oggettivo, nel senso che si è per esempio discusso molto dei due rigori di Juve-Atalanta, dicendo che c'erano e interrogandosi sull'aspetto filosofico in una giornata dove il Sassuolo va in vantaggio dopo 8 minuti e non si capisce perché gli annullano un gol. Quindi cioè, voglio dire, ho fatto questo esempio ma potrei sicuramente trovare degli esempi contrari, cioè a me sembra che le 3-4 squadre che sono lì davanti faccio fatica a individuare veramente il disegno, cioè dico, se c'è un disegno a favore della Juve allora perché il gol di Lazio Sassuolo all'ottavo minuto che è buono viene annullato, no, ma di là di disegno c'è questo episodio specifico o viceversa, attenzione veramente, ci tengo perché sennò adesso ci dato il 30% della frase, o viceversa, cioè io puoi fare un esempio a partita, so, Riccardo, che ne pensi? Io do una spiegazione che è la stessa che ho dato ieri sera in telefonica e che fa incazzare tutti. Allora, live è fallo tutta la vita, è un fallo che di bello deve fischiare e vedere live, in cui Lautaro paga un po' il fatto che ha questa tendenza a lasciarsi importare spesso e quindi secondo me non gli viene premiato il fischio che invece aveva avuto in qualche situazione precedente. In quel caso di bello ha pensato che si fosse lanciato e ha fatto giocare. Fallo giusto da fischiare senza discussione, punto. Se entriamo nel discorso del VAR, del chiaro ed evidente errore, la mano sulla spalla e il tocco piede in quel modo, che non è un calcio ma è un tocco, non è Spinazzola su Modric, ok? È un tocco, è una dinamica nella quale non dovrebbe proprio intervenire il VAR, cioè non ci doveva essere la dinamica di campo, l'errore è a monte. Sì, infatti non è come era una dinamica di campo quella di Spal-Inter, grave. com'era una dinamica di campo quella di Spal-Inter, ma io sono contento che tu abbia detto questa cosa, perché torniamo sempre al solito discorso, cioè che qui è cambiata ovviamente la percezione e l'aspettativa da parte delle persone, ed è normale, ma pure la mia è cambiata, pure la mia da spettatore, da appassionato di calcio, cambia, nel senso che ti aspetti di vedere un qualcosa che è molto più oggettivo, molto più simile a qualcosa di preciso, dove il regolamento dice questo, è o sì o no. Poi invece esiste tutta quest'area grigia della valutazione da parte degli arbitri sugli scontri, e qui pensiamo a Caicedo Dropkowski, pensiamo al discorso di, appunto, dell'altro giorno di Andanovic con Trefezza, possiamo pensare anche a quello di ieri, che pure secondo me era chiaramente fallo, certo, questo, la domanda che devi fare per lui ieri sera è questa, se quel contatto avviene in area di rigore, viene dato rigore per un chiaro errore? No, ma infatti, cioè, a monte il discorso è perché è entrato in funzione il VAR, non trattandosi di chiaro ed evidente errore. È quasi come, a voler pensare male, è come se chi era al VAR, che era guida mi pare, si sia voluto, non ti dico lavare la coscienza, ma sollevare da ogni responsabilità, da ogni casino, polemica, impiccio, certo, dicendo certo. Oh, guarda che è quella cosa lì, però l'arbitro era lì, non penso che non rientri nella casistica del chiaro ed evidente errore, per cui deve richiamare. Era nato per fermare Harry, che fa di mano in Francia aerea, e manda la Francia ai mondiali, o per la fase di Zidane a Materazzi. Questo però bisogna, allora, o noi facciamo domani una cosa a reti unificate in cui deve essere chiaro ed evidente tutto questo, e comunque sia, secondo me è sbagliato, perché quando tu arrivi a un livello, cioè, o tu accetti il principio che l'arbitro non è che sto diventando come Massimo Mauro, che saluto ed abbraccio, sapete la sua teoria sul fatto che lui vorrebbe il VAR soltanto sugli episodi metrici. Io continuo a pensare che il VAR sia importante, però penso anche che deve essere molto chiaro dal punto di vista della comunicazione. I limiti del VAR devono essere chiari, e i protocolli, e bisogna fare comunicazione da questo punto di vista al 100%, perché se no io lo vedo, cioè il percepito, ma logico, legittimo delle persone, è che se c'è un errore, e questo errore per un discorso di protocollo, per un cavillo di formalismo non viene corretto, la gente è arrabbiata, ma giustamente è arrabbiata. Perché comunque c'ho le immagini, allora bisogna rimodulare tutto. Allora veramente, o si arriva a una situazione in cui il VAR interviene soltanto per degli errori clamorosi, penso a Roma Mönchengladbach di Europa League, no? Una cosa incredibile, per delle cose gigantesche, o per delle cose metriche, quindi fuori gioco, quindi la goal line technology, oppure va specificato ed espresso meglio, perché una volta il VAR interviene, lo va a vedere, poi lo va a vedere, conferma la sua decisione in televisione è sbagliata, la decisione di ieri è sbagliata, cioè chi vede quell'immagine dice quello è fallo, no, certo. Non ci può essere da discutere, e allora poi quello che viene fuori è un pasticcio clamoroso. Ma a monte è sbagliata la chiamata dell'arbitro al monitor, secondo me, cioè a monte l'errore sulla mancata sì, chiamata. Fammi dire pure una cosa, che sono stati molto anche gli arbitri a complicarsi la vita, è vero, i falli di mano davano metà rigore sì, metà rigore no. Se non dai il rigore di Mancini in Roma Parma, sembra, sì. vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, perché poi vengono fischiati falli di Nocca con braccia attaccate al corpo, tipo De Ron in Juve-Atalanta. Quindi se tu li dai tutti, secondo me risolvi i problemi. Chiarisci che i falli di mano sono tutti rigore, come il fallo di mano in attacco è tutto gol annullato, il fuorigioco è perfetto per il VAR, la goal line technology è perfetta, accontentiamoci e non andiamo a scavare sui microcontatti al centrocampo e sulle altre cose che faranno sempre parte del gioco del calcio. Non credo sia difficile, ma un po' istituzionalizzato. Per esempio adesso sinceramente il fatto del contatto, di dire che il contatto viene deciso all'arbitro, ma di dirlo alla prima giornata, viene deciso all'arbitro e non può essere oggetto di VAR, questa cosa qui semplificherebbe la vita. Attenzione, non toglierebbe le polemiche, perché poi se l'arbitro sbaglia e la gente direbbe ma scusa, ma c'è la tecnologia, però almeno lo dici subito, sì, che il contatto, una volta che l'arbitro lo vede, se lo giudica, e a questo punto facciamoli anche parlare gli arbitri. Lo diciamo da quando ero piccolo, praticamente. La conclusione è stata che quel tipo di contatto era un contatto di gioco e l'arbitro ha fatto giocare. Ma la conclusione è quella. Grazie ragazzi, vi saluto. Ciao, vi abbraccio. Ciao. Stavo tanto bene. Lo so, ma devo mandare la borsa, poi la Formula 1, il Moto Mondiale, tutte queste cose qui che insomma. di cui bisogna parlare, vogliamo parlare. Avrei da ridire sul fatto che Conte sia un gran allenatore, ma qual è il suo palmarès a livello europeo? Cioè, col Chelsea non ha vinto niente, con la Juventus non ha vinto niente, in Europa chiaramente. Ma io mi stupite quando dite che Conte è un gran allenatore. Per me è un buon allenatore, ma niente di più. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Convocati. È caduto! Attenzione! Ancora! Ma si è fatto male? Non lo so, però ha picchiato duro. Ha rotolato forte. Questo è già un episodio decisivo per il campionato. Decisivo no, influente sì. Ha avuto un moment, ha fatto un errore all'inizio, è riuscito a non cadere, poi è ritornato su, era quello che andava di più, che aveva più passo. Quando tiri forte ha fatto una brutta caduta in un brutto posto, quindi si è fatto male. Secondo me adesso bisogna vedere quanto tempo ci mette per recuperare, però è difficile per il campionato perché è corto, ci sono poche gare. L'ho visto quando ha fatto il primo errore, è uscito davanti da me, ma dopo tre giri già non lo vedeva. Dico, dove è andato questo, sai? Dopo, quando hai visto che è caduto, là sapeva già che era una caduta dura. Mentalmente non è posto, è il primo che non vuole buttare a terra un campionato. È difficile, ma anche è una bestia e sicuro che torna forte. Ciao Roberto Ungaro. Ciao, ben ritrovato. Ciao, è un giorno già importante, il primo di scuola, giorno già importante per il Mondiale. Domani operano Marquez, sapremo quanto dovrà star fuori e comunque l'ha letta bene Valentino, molto più della gara. Comunque in un campionato così corto è già qualcosa di imprevisto e imprevedibile. Paolo Ciabatti, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Roberto. Ciao, direttore ciao. Sportivo Ducati, che lascio a Roberto Ungaro per una prima considerazione. Paolo, alla fine lo si è visto, l'uomo Dovizioso ha salvato il podio Ducati e alla fine questo Dovi serve, lo sappiamo tutti, l'hanno detto in tanti, è la soluzione per adesso, quindi tutti sperano che il matrimonio si faccia. Speriamo che sia così, in effetti ieri ha fatto una grande gara e devo dirti che non era facile per noi pensare al podio. Siamo un po' stati aiutati ovviamente dal brutto incidente di Marquez, perché sennò saremmo arrivati ai piedi del podio, però intanto ci godiamo questo terzo posto di Andrea e anche un bellissimo quarto posto di Miller, che ha fatto una grande gara, così come Pecco Bagnaia, che era quello che ci aspettavamo di vedere. E poi per chiudere i nostri piloti, se vuoi, ha portato a casa un nono posto con i denti Danilo, che purtroppo nell'incidente causato dalla perdita d'olio della moto di Spargarò, di Alex Spargarò, mercoledì ha preso una brutta botta e oltre ad aver avuto un trauma cranico in realtà si è stirato i muscoli della schiena del collo, quindi non era assolutamente in forma ieri. Speriamo che in questi giorni riesca a riprendersi per essere ok per la prossima gara, sempre su questo circuito domenica. Sì, Paolo, alla luce di quanto è successo, vediamo Marquez quale sarà il responso dopo l'operazione, se è solo frattura potrebbe addirittura rientrare a Brno, che sembra una cosa pazzesca, alla prima gara di agosto. Se ha problemi più seri potrebbe perdere più gare, però è chiaro che la geografia del campionato cambia e potrebbe spostarsi sul rosso, o no? Sicuramente Marquez, lo sanno tutti, è stato il nostro avversario numero uno in questi tre anni, tanto che siamo arrivati per tre volte secondi con Andrea, quindi senza Marquez sarebbe stata una storia diversa. questo incidente, è un incidente molto brutto. Ieri sera in albergo ho parlato col dottor Mir, che domani farà tre operazioni in realtà, perché si occuperà di Marc Marquez, di Cal Crutchlow che si è rotto lo scafoide e di Alex Rins. Quindi un grande lavoro anche per il dottor Mir in una clinica a Barcellona. Però è una frattura brutta, da quello che mi ha detto. Sembra che non ci sia un interessamento al nervo radiale, che era una preoccupazione che avevano, lo vedranno i medici. È chiaro che è una situazione inaspettata e che forse apre degli orizzonti diversi anche per noi, quindi a questo punto, anche se è brutto dirlo, dobbiamo approfittare al massimo, certo, della sfortuna di un nostro avversario per cercare di portare a casa i migliori risultati nelle prossime gare. È chiaro che Jerez non era mai stata una pista particolarmente favorevole per noi, sì, abbiamo fatto un po' di fatica ma abbiamo portato a casa un terzo e un quarto posto, e dopo questi la gara di domenica ci saranno Brno e due gare in Austria, che sono circuiti dove siamo andati sempre molto forte, sì, quindi appunto. Dobbiamo massimizzare i risultati da domenica prossima sicuramente fino alla seconda gara dell'Austria, poi vedere un po' com'è la situazione. Appunto, Roberto, potrebbe essere la grande occasione della Ducati. Deve assolutamente, deve, perché un campionato così corto senza il re bisogna approfittarne. Ma Paolo, toglimi una curiosità, il pecco dei primi giri mi è piaciuto molto, a tutti è piaciuto molto, quello è il pecco che vorremmo vedere tutti sono Ducati. Cosa gli manca per fare quel salto? Beh, sai, in realtà quest'anno pecco è sulla stessa moto degli altri tre piloti e quindi può dimostrare il suo vero valore, il suo grande talento. Lo scorso anno ha avuto una stagione complicata come rookie, sappiamo che la Ducati non è la moto più facile per un rookie e lui l'anno scorso era sulla moto dell'anno prima, sì, e quest'anno credo che abbia ancora di imparare alcune cose, ma è sulla strada giusta. Da un certo punto in poi la gomma davanti lo ha praticamente mollato e quindi ha dovuto gestire la gara e cercare di arrivare in fondo, che era quello che gli avevamo chiesto di fare. Comunque vederlo così in forma nei primi giri è segno che, insomma, credo che ci abbiamo visto giusto con lui anche. Senti Paolo, adesso in questa situazione particolare, con un mondiale di 13/16 gare ancora non è chiarissimo. Ogni gara diventa... Al massimo saranno 14, credimi. Maggior ragione. Massimo 14, sì, una già fatta. Marquez che deve saltare la prossima corsa e vediamo poi che succede. A Jerez vedremo nel weekend un déjà vu della gara di ieri o vi giocherete qualcosa di diverso? Ma guarda, sicuramente le Yamaha hanno dimostrato di andare molto forte qui e senza una scelta diversa dagli altri di Vignales, che ha scelto la software anteriore, probabilmente se la sarebbe giocata con Quartararo. Quindi io credo che loro siano ancora favoriti per la gara di domenica. Noi faremo tesoro di alcune esperienze di questo weekend per cercare di migliorare il nostro passo in gara. Per cui io penso che aspirare al podio ovviamente deve essere il nostro obiettivo. Penso con tutta onestà che le Yamaha di Quartararo e di Vignales abbiano ancora qualcosina in più qua. Grazie Paolo, bocca al lupo. Grazie a voi. A molto presto. Roberto, saluto anche te, perché ho il traffico e poi faccio un salto sulle quattro ruote da un rosso all'altro, molto molto più stinto quello della Ferrari. Traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Sulla Ferrari 2020 nessuno lo vuole dire e allora lo dirò io: crisi tecnica. Beh, insomma, non è che nessuno lo vuole dire, mi sembra logico nei fatti, mi sembra che lo diciamo un po' tutti. Giorgio Terruzzi, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Senti, vorrei partire da un tuo amico che non corre in macchina ma in moto, si chiama Valentino Rossi. Nella prima corsa, la più strana della stagione, che già potrebbe indirizzare il mondiale da un'altra parte ignota, sconosciuta e imprevista, Vederlo parcheggiare ieri ti ha fatto qualche effetto, oppure è qualcosa cui, insomma, vederlo lì a centrogruppo ad annaspare e a remare dobbiamo abituarci per altri due anni? E non so se saranno due o uno, dipende da lui, dipende perché, perché parcheggi o arrivi nono, non è che cambia granché. Il problema è capire se è un problema di tecnico o un problema più connesso alla guida, al suo modo di guidare, alla sua età, non lo so. Cioè, insomma, meno male, un po' tutti, a cominciare da lui, dobbiamo renderci conto che ogni storia ha un termine in qualche modo, no? Poi magari salta fuori qualche coniglio da qualche capello, ma insomma mi pare un po' in difficoltà con sta moto, con non so cosa, ma lontano da quello che si è abituati a fare, sembra quello che vorrebbe fare. Il suo modo di guidare non si tagli perfettamente a queste moto di nuova generazione, che sia un po' old style come tipo di guida. Ma insomma non lo so. Non lo so nemmeno io. Non lo so se è così semplice da definire, insomma. Cioè, non è un semplice modo di guidare, è che se vedi cioè, io penso che con la maturità certe pazzie che vediamo fare in quel mestiere lì, dove una parte di incoscienza ci vuole, forse non le fai più, no? Comprensibilmente. Certo, insomma, certo. La maturità porta a delle evoluzioni anche inconsce, inconsapevoli. Lo sto dicendo così affettuosamente, cercando di capire una cosa che non è facile da definire. Senti, invece, dall'altra parte, per quanto abbiamo visto in Ungheria, io ho avuto, anche qui con te condivido una sensazione, che è quella che la Mercedes, Toto Wolff con le sue dichiarazioni, Lewis Hamilton con quella gara penalizzante per gli altri, cioè li ha voluti purgare scientemente, abbiano voluto mandare a far sentire la voce dei padroni veri? Insomma, ci sono molte oscurità dentro tutto questo, c'è di fatto una difficoltà oltre ogni aspettativa della Ferrari, con una difficoltà tecnica. Poi su, ma insomma io vedo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma, comunque scarti di potenza abbastanza comprensibili, una federazione che dorme, questa storia della Mercedes è una cosa che fa ridere, perché chiunque lavora in Formula 1 ride, appunto, perché sa benissimo che non copio una macchina con le fotografie, solo che dentro questa cosa qui come fai a mettere sotto accusa la Racing Point, che vuol dire la Mercedes, tra Toto Wolff e la Racing Point ci sono delle relazioni complesse, economiche, finanziarie, insomma un po' troppa roba già vista, oscura, no? Sì. Poi questo, ciò non toglie che stiamo parlando di una macchina pressoché perfetta, che è migliorata peraltro, mentre altri non ce la fanno ad avere una relazione tra potenza del motore e carico aerodinamico così efficiente. Io ho la sensazione che comunque molto si giochi in quella zona oscura, perché mi ha colpito più della guida di Hamilton e di Vettel, che dice: ma sapevamo già che ci avrebbero doppiati. Questa dichiarazione è abbastanza sconcertante, non la trovo normale. In quella risposta molto sprezzante di Toto Wolff e molto indirizzata verso la Ferrari, insomma, è stata qualcosa di non particolarmente normale. No, ma lì c'è una questione personale di Toto Wolff, che ha delle ambizioni smisurate e che ha avuto uno stop per una volta a un progetto proprio, e questa cosa lo manda in bestia, ma insomma. Sì. Ma queste sono diciamo così, orpelli rispetto a una, come dire, una realtà tecnica che è quella che è e che chiede molto tempo, nel senso che se tu fai una macchina pensando di avere 60 cavalli in più e poi non li hai, vuol dire che devi cambiare tutta una serie di parametri e di regolazioni, che comporta un lavorone, sì. Un lavorone quando va bene. Oggi si legge di test che potrebbero saltare in casa Ferrari. credo sia anche un'operazione così, per, potrebbe essere un'operazione per l'opinione pubblica, no? Per accontentare un'opinione pubblica inferocita, quando sai benissimo che questa macchina la cambierai nel corso degli anni, e lì sì che ci vuole. Ma certo, ci vuole, ma questa cosa tempo. Qui è, devo dire, voi che siete sul pezzo, lo dico senza polemica, ma è una coda di certi atteggiamenti che stanno nella cultura calcistica. Cioè, non è che li cambi uno. Esatto. Non, serve, non è mai servito un cacchio. Cioè, lì sono oggetti, pezzi progettati che vanno riprogettati. Non è che se va lì Draghi, un ingegnere diventa un figo. Cioè, non è un problema di voce grossa, di pugno di ferro, è un problema che se tu hai un gruppo di tecnici, non sono stupidi, ma devono riformulare un progetto, questa cosa, parlando di gente che si mette in discussione, che sa fare il proprio mestiere, quindi stiamo parlando nella migliore delle ipotesi, con i regolamenti che ci sono, chiede un sacco di tempo. Per chiudere invece, la gara di Leclerc, che non è piaciuta a nessuno ieri, ne parlavamo, quella al via è stato molto attento a rimanere lontano a sufficienza dal suo compagno in rosso, forse troppo attento, forse ci pensa troppo, forse è un pelo depresso, forse sente la pressione, forse la macchina non va proprio, o forse boh. No, il problema è che la Leclerc deve stare davanti a Vettel in qualifica, probabilmente lì ci ha messo un po', cioè ancora in una situazione così tra lusco e il brusco, uno esperto e sveglio come Vettel probabilmente ci mette un filo meno di lui a capire cosa va fatto. Poi il resto è una conseguenza, no? Cioè, per forza che è stato prudente partendo dietro con Vettel davanti al muso dopo quello che è successo in Austria, cioè ci sta. Sì. Poi dopo ha sbagliato le coperture, anche lì, no? Ha messo le rosse, probabilmente era convinto di andare più forte, quindi la squadra l'ha seguito, oppure diciamo, i dati che avevano in mano, invece no, insomma, ma non, ripeto, cioè, arrivi quarto invece che sesto, non so, dico, faccio un esempio, no? Sì. Cioè, non è che siamo lì, cioè, voglio dire, rispetto alle Mercedes, la Racing Point, poi dopo può andare bene, può andare male, siamo un po' lì sul passo, ma insomma, siamo lontani da questi qua, ecco. Troppo. Grazie Giorgio, a presto. A voi, buon ciao. Lavoro, ciao. Ciao, ciao. Ciao Giorgio Terruzzi, con cui chiudiamo il nostro programma. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato in regia. Stasera Juventus-Lazio, domani magari racconteremo di un campionato finito oppure di una crisi vera della Juve. Questo è il tema di domani. Grazie a tutti, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.